Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un caro saluto. Ci affidiamo per questa ora e mezzo che insieme condivideremo, ci affidiamo allo Spirito Santo perché ci aiuti a entrare nella parola di Dio, soprattutto facendo sì che questa parola illumini la nostra vita, il nostro cuore, non si fermi solo nella nostra testa. Ecco, nel nostro percorso di lezione continua noi stiamo ripercorrendo le pagine degli Atti degli Apostoli. Siamo arrivati al capitolo 3, quindi all'indomani del grande evento di Pentecoste, narrato nel capitolo precedente, e subito dopo l'evento di Pentecoste Luca si era premunito di far fare una piccola sosta ai suoi lettori descrivendo un quadro ideale della comunità cristiana. L'abbiamo proprio approfondito la volta scorsa immaginandoci di trovarci con in mano i colori fondamentali, una sorta di tavolozza virtuale con cui dipingere il quadro della prima comunità cristiana. E avevamo visto che la prima comunità cristiana si sostiene su quattro pilastri fondamentali: la comunione, la condivisione dei beni o coinonia, che abbiamo paragonato al colore giallo, la fractio panis o eucaristia, che abbiamo associato al colore rosso, il colore del sacrificio, del dono di sé, la preghiera con il colore blu, il colore proprio dell'apertura dei cieli, e poi l'insegnamento degli apostoli, che abbiamo associato al colore che serve per delineare le sagome, il nero. Bene, attorno a questo quadro ideale, dopo il dono dello Spirito, la comunità comincia a incamminarsi sulle strade del mondo, comincia a vivere la sua esperienza missionaria, ed è proprio a questa che ci dedichiamo questa sera. Ecco, chiediamo proprio l'assistenza vicendevole del dono dello Spirito Santo. Ognuno di noi in questa giornata ha vissuto le proprie esperienze, esperienze familiari, esperienze lavorative, esperienze relazionali. Sicuramente qualcuno di voi che è in ascolto è a contatto anche con una situazione di precarietà, di fragilità, magari anche di malattia. Ecco, chiediamo al Signore a ciascuno di dare la luce necessaria a partire dalla pagina che ascolteremo. Il brano del capitolo 3 degli Atti degli Apostoli si può suddividere in due grandi momenti. C'è un momento, il primo, in cui si descrive un miracolo compiuto dai primi apostoli, e poi c'è il secondo momento, che è quello del discorso che gli apostoli fanno alla folla sbalordita per quello che è successo. Leggiamo i primi versetti che descrivono il miracolo che succede alle porte del Tempio. I primi, siamo al capitolo 3, per chi è in possibilità di farlo, chiedo di prendere un'edizione del Nuovo Testamento o della Bibbia e di aprirlo proprio al capitolo 3 degli Atti degli Apostoli. Ascoltiamo il testo. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui, di solito, veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono colmi di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Ecco, in questi 10 versetti viene narrato questo episodio, questo prodigio compiuto da Pietro e Giovanni. Se avete ascoltato con attenzione il testo avrete notato che c'è una certa ridondanza, una certa ripetizione da parte del narratore su tre elementi che vengono più volte enfatizzati nel racconto. Il primo elemento è l'ingresso nel Tempio. Si continua a dire che lo stoppio viene posto alla porta per chiedere l'elemosina a quanti entrano, Pietro e Giovanni stavano per entrare e alla fine del miracolo finalmente anche lo storpio può entrare nel Tempio. Cioè questa prima sottolineatura ci fa capire che l'esperienza del povero che è alla porta del Tempio è un'esperienza che non gli permette di entrare, cioè quest'uomo rimane sulla soglia, la sua non è solo una malattia fisica, è storpio, la sua è anche una malattia di carattere, come dire, relazionale, spirituale, perché è un uomo che vive costantemente sulla soglia, che non può entrare nel luogo del rapporto con Dio. Secondo elemento di ridondanza è legato al vocabolario del vedere, per cui Pietro lo invita a guardare verso di lui e Giovanni, il povero fissa lo sguardo su di loro, la gente vede quello che è accaduto, cioè c'è una certa sottolineatura del vocabolario del vedere, come se quello che la gente vede di primo acchito non è la realtà delle cose, ma è solo, come dire, un velo oltre il quale bisogna saper andare per imparare a leggere le cose con gli occhi di Dio. Poi c'è la terza ridondanza riguarda a ciò che il povero si aspetta. Il povero si aspetta di ricevere qualche soldo, qualche cosa d'oro e d'argento, e invece riceve tutt'altra cosa, qualcosa di molto più prezioso, perché riceve la qualità della vita, che si esprime poi in quegli atteggiamenti ben evidenziati alla fine del racconto, dove il povero non solo cammina, ma si mette addirittura a saltare e a danzare, una danza che diventa poi lode. Cerchiamo di entrare un pochino nel dettaglio di questo miracolo. Prima di tutto cerchiamo di capire chi è quest'uomo storpio. Va subito detto che sia gli storpi che i paralitici sono cari alla tradizione lucana. All'inizio dei ministeri pubblici di una certa importanza notiamo che c'è sempre la guarigione di uno storpio. Sembra quasi che il narratore paragoni l'esperienza dell'uomo all'esperienza di uno storpio, in qualunque situazione esso si trovi. Provate ad andare a vedere come inizia il ministero pubblico di Gesù. Il ministero pubblico di Gesù, dopo la chiamata dei primi discepoli, inizia con la guarigione di un uomo che era impossibilitato a camminare, che viene portato con una portantina da 4 persone che lo calano all'interno di una stanza della casa di Cafarno dove Gesù si trova. Ora, all'inizio della storia della Chiesa, subito dopo il dono della Pentecoste, la prima guarigione che viene compiuta è la guarigione di uno storpio, questo che si trova alla porta bella del Tempio. Se voi andate al capitolo 14, quando inizia il ministero pubblico di Paolo, quindi dell'altra grande colonna della Chiesa delle origini nel mondo pagano, noterete che al capitolo 14, esattamente a Listra, la prima persona che Paolo incontra è un uomo paralizzato alle gambe, anche lui storpio fin dalla nascita, e poi leggeremo con attenzione questo testo. Quindi tutte le volte che c'è un grosso miracolo da sottolineare, viene sempre messo in scena uno storpio. Quest'uomo, oltre a essere storpio, ci viene detto che la sua malattia è congenita, è nato così, quindi non è un qualcosa che si è procurato a causa di un incidente, no, è nato così, fa parte della sua identità, della sua essenza. Poi capiremo perché stiamo facendo tutte queste sottolineature. L'uomo non è autonomo, altri lo devono portare ed altri lo devono portare via la sera, viene portato alla porta del tempio per ricevere l'elemosina. Oltre a non essere autonomo, per vivere deve mendicare, contando sulla carità di chi passa. La cosa curiosa sta all'esterno del tempio, o meglio, sta in una zona di passaggio, non può entrare nel tempio. E qui non si capisce come mai, forse perché, come gli altri ammalati, era considerato all'interno delle categorie di impurità. Sapete, nel primo secolo alcune forme di malattia erano considerate come causate da una sorta di misterioso peccato dell'uomo, per cui i malati erano considerati alle periferie dell'area sacra. Al capitolo 4 ci verrà detta anche la sua età, era un uomo che aveva più di 40 anni, quindi l'identikit, se vogliamo, è ben delineata. È un uomo storpio che non è in grado di camminare, è nato così, viene portato al tempio al mattino e riportato a casa la sera, dipende dalla carità degli altri per vivere, la sua età è quella di avere oltre 40 anni, anche questo elemento, vedremo, non è secondario. Quando noi andiamo a leggere una pagina simile al capitolo 14 per Paolo, notiamo che ci sono anche qua alcuni elementi simili. Leggo i versetti che si rifanno all'episodio di Paolo, capitolo 14, versetti 8-10. C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, vedete anche questo, è storpio e lo è sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo mentre parlava e questi, fissandolo con lo sguardo, notate il ritorno del vocabolario dello sguardo, e vedendo che aveva fede di essere salvato, disse a gran voce: alzati ritto in piedi, lo stesso invito che fa Pietro nel capitolo 3. Egli balzò in piedi e si mise a camminare. Allora la gente, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare dicendo, eccetera, eccetera. Quindi notiamo che nell'uno e nell'altro caso Luca tiene a mettere questa persona al centro dell'attenzione. Oltre a delineare bene chi è l'uomo, noi notiamo che nel racconto c'è una precisazione molto attenta da parte del narratore sul luogo e sul tempo in cui questo avviene. L'ambientazione geografica è quella del Tempio e qua non dobbiamo trascurare questo aspetto, perché il Tempio era il luogo dell'incontro con Dio, era il luogo in cui l'uomo attraverso la relazione con Dio ritrovava la sua dignità. Ora è curioso che un uomo, quindi un figlio di Dio, che ogni giorno veniva posto alle porte del Tempio, praticamente non poteva vivere quello che il Tempio prometteva, non è in grado di vivere quello che il Tempio prometteva. Portato al Tempio rimaneva sulla soglia, arrivava storpio e se ne andava a casa storpio, con qualche moneta in più, punto, però non riusciva a, fare il salto di qualità. Detto in altri termini, il Tempio di Gerusalemme, pur con tutta la sua struttura, pur con tutta la sua imponenza, pur con tutte le sue risorse, non era in grado di restituire a quest'uomo la sua dignità, la sua figliolanza, la sua profonda dignità di figlio di Dio. C'è poi un'altra cornice importante a questo racconto, ci viene detto quando questo episodio si svolge. Salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio, quindi siamo in un luogo, il Tempio, in un momento preciso, alle 3 del pomeriggio. Ora, noi sappiamo che a Gerusalemme nel primo secolo venivano offerti 3 sacrifici, uno all'alba, uno a mezzogiorno, uno all'alba, uno al tramonto e uno all'ora nona, l'ora nona erano le 3 del pomeriggio. Il sacrificio dell'ora nona era conosciuto come Tamid, era accompagnato dall'offerta di un sacrificio per invocare la benedizione del popolo, e questa benedizione era quella che ricordava al popolo la sua dignità di essere popolo prediletto. Ora, per Pietro e Giovanni che salgono al Tempio, quell'ora ha acquisito un significato importante, perché l'ora delle 3 del pomeriggio non è più solo l'ora del Tamid, della benedizione che ricorda al popolo di Dio la sua dignità di essere eletto, ma ricorda anche la benedizione che è scaturita dal legno della croce. Le 3 del pomeriggio è il momento in cui Gesù è morto, dando la vita per gli uomini, ed è nel nome di questo Cristo che lo storpio, fin dalla nascita, riuscirà a trovare la piena dignità della sua persona, riuscirà a rimettersi in piedi. E allora lentamente il quadro si delinea. Perché dietro quest'uomo che ha 40 anni e che ogni giorno viene posto sulla soglia del Tempio, per il lettore non è difficile riconoscere un'icona di Israele. Per Luca Israele è come uno storpio che ogni giorno si trova alle porte del Tempio, ma non è in grado di entrare in relazione con Dio. È uno storpio che ogni giorno riceve l'elemosina dei sacrifici, attraverso i sacrifici compie il suo rendimento di grazie, riceve la benedizione, però se ne torna a casa storpio. Ora, solo attraverso il mistero di Cristo, lo storpio Israele riesce a trovare la pienezza della sua dignità. Quindi quest'uomo che ha oltre 40 anni, anche qua il cammino del popolo nel deserto è rappresentato dietro questi 40 anni, il cammino che Israele ha fatto. Ora è giunto il momento di entrare nella terra promessa, e questa terra promessa è rappresentata da Cristo. Io non ho oro né argento, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E guardate, dietro la terminologia dell'alzarsi e del camminare torna nel testo greco la terminologia della risurrezione. Alle 3 del pomeriggio, quindi immersi nel mistero pasquale della croce, l'uomo storpio che rappresenta Israele può finalmente rialzarsi. E capiamo anche perché la stessa scena si rivela a Listra, quando Paolo inizierà il suo ministero pubblico, perché in quello storpio che Paolo incontra a Listra sono raffigurati i pagani, e non a caso lo storpio di Listra è storpio da tutte e due le gambe, e anche lui fin dalla nascita, mentre la situazione dello storpio del capitolo 3 non ha, come dire, non ha tutta questa enfasi sul discorso della malattia. Entrambi sono icona di due volti del popolo, il popolo ebraico e il popolo pagano, che se non incontrano Cristo restano in una situazione di, come dire, di mancanza, di incapacità. Uno resta sulla soglia del Tempio, ma non riesce a entrare nel rapporto con Dio. L'altro resta totalmente sulla strada. Andiamo avanti nel nostro racconto, perché notiamo che balzate in piedi, cioè dopo aver ricevuto il miracolo, ci viene detto i suoi piedi, le sue caviglie di colpo si rinvigorirono, balzate in piedi si mise a camminare. Ed entrò con loro nel Tempio, quindi la possibilità di entrare, ma ci sono qui i tre verbi: camminando, saltando e lodando Dio. Interessante l'utilizzo di questa triplice sottolineatura che dice l'esuberanza della vita che abita il cuore di questo storpio. Il verbo utilizzato per il salto e il saltare descrive l'acqua che zampilla, viene utilizzata nel Vangelo di Giovanni per sottolineare l'acqua che Gesù dà, l'acqua che io darò diventerà in lui sorgente che zampilla per la vita eterna. Viene utilizzato lo stesso verbo allomai, che significa appunto zampillare, saltare. Il verbo che viene utilizzato per la lode ricorre pochissime volte nel Nuovo Testamento, pensate, solo 8 volte, di cui 6 in Luca, ed è lo stesso verbo che viene utilizzato per descrivere il canto degli angeli in occasione della incarnazione e la lode dei pastori al ritorno da Betlemme. È qualcosa che ha a che fare con l'esperienza di Dio, con l'esperienza di Dio. Quindi quest'uomo è proprio immerso nel mistero di Cristo. E poi c'è quel famoso gioco di sguardi. Nel gioco di sguardi lo storpio è invitato a guardare in faccia la realtà, cioè a rinunciare a quell'accontentarsi di un po' di oro e di argento per sopravvivere, per entrare invece e cogliere quello sguardo che già nel ministero di Gesù aveva dato vita a diverse persone. Ricordiamoci, lo sguardo di Gesù è quello che spesso accompagna diverse guarigioni, è quello che precede le conversioni, è quello che annuncia le vocazioni di alcuni dei discepoli. Quindi dietro tutta questa terminologia c'è un racconto ben preciso che mostra come da Gerusalemme parte il primo annuncio della comunità cristiana attraverso 2 suoi rappresentanti, attraverso Pietro e Giovanni. Lo storpio rappresenta la comunità ebraica che è destinataria di questo annuncio. Lasciamo ora un breve stacco musicale per vedere cosa poi questo miracolo produce in coloro che assistono, in coloro che sono presenti alla scena. Quindi un breve stacco musicale, dopodiché continueremo con la nostra riflessione. Ecco, dicevamo che il nostro autore, il nostro narratore precisa l'età della persona che viene guarita, no? Quasi 40 anni. Il 40 anni ci ricollega alla storia del popolo di Israele che dopo 40 anni entra nella terra promessa. Ecco, questo ci porta a dire che anche per la comunità cristiana questo è un momento di svolta, perché Pietro e Giovanni non si stanno rendendo conto di quello che sta succedendo, perché la guarigione che loro donano a quest'uomo non lascerà indifferenti le persone che stanno attorno. Dopo la guarigione si crea un assembramento di gente, l'assembramento di gente attirerà l'attenzione delle autorità e inizia, praticamente nel giro di poche ore, inizia la pagina delle persecuzioni della comunità cristiana, una pagina che immerge la comunità cristiana all'interno del mistero pasquale stesso di Gesù, ma nello stesso tempo permette al cristianesimo di diffondersi ad ampio raggio. Pensate, le ondate della violenza a cui la comunità cristiana sarà soggetta iniziano qui, proprio alla porta del Tempio, sulla soglia del Tempio, e si svilupperà in 4 grandi ondate. Nella prima ondata di violenza verranno arrestati solo Pietro e Giovanni, e questo sarà oggetto della narrazione al capitolo 4. Nella seconda ondata è tutto il gruppo dei 12 che verrà chiuso in prigione, e Luca lo racconterà nel capitolo 5. Una terza ondata comincerà a complicare le cose, in quanto comincia a scappare il morto, muore un giovane, Stefano, e si scatena una vera e propria persecuzione che disperde una parte della chiesa che si trova a Gerusalemme, lasciando però ancora intoccati i 12. Quindi la Chiesa sarà obbligata a uscire da Gerusalemme. Fino al capitolo 6 tutta la comunità è ancora raccolta a Gerusalemme e dintorni. Dopo la terza ondata di persecuzioni che porta alla morte di Stefano è costretto a uscire. E poi c'è la quarta ondata. La quarta ondata che porta con decisione contro il cuore della comunità, contro il gruppo dei dodici che finora era rimasto intoccato, e verrà messo a morte Giacomo, il fratello di Giovanni. E Pietro, che fino a questo momento era riuscito a rimanere a Gerusalemme, dovrà lasciare la città santa in mano a un'altra persona, al famoso Giacomo di Gerusalemme, per dirigersi, chi dice verso Antiochia e altri dicono invece verso Roma. Quindi la pagina che noi su cui stiamo sostando è una pagina che ha delle conseguenze enormi sulla storia del cristianesimo delle origini. Il bene suscita paradossalmente una persecuzione però che ha degli effetti benefici sulla comunità cristiana. Ma ascoltiamo come Luca racconta la reazione di coloro che assistono al miracolo. Cominciamo ascoltando la prima parte del discorso, versetti da 11 a 16. Mentre lo storpio tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo i testimoni. È per la fede riposta in Lui il che il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi». Ecco, notate, nella prima parte del discorso viene subito detto che la persona guarita trattiene Pietro e Giovanni, diventa quasi una sola cosa con loro, sente di aver ricevuto il dono più prezioso della sua esistenza e non vuole mollare chi gli ha dato questo dono. E i tre si spostano in un'area ben precisa del tempio, il portico di Salomone. Il portico di Salomone era noto ovviamente a tutti coloro che salivano al Tempio, perché era l'area dove si tenevano le scuole dei grandi maestri della Torah. Grandi maestri della Torah, quando dovevano dare degli insegnamenti preziosi ai loro discepoli, si radunavano sotto il portico di Salomone. Del resto gli stessi Vangeli attestano che più volte Gesù alla vigilia della sua passione si radunava con i suoi discepoli sotto il portico di Salomone. Era il luogo degli insegnamenti. Ecco, in questo luogo, deputato agli insegnamenti, Pietro fa il suo primo discorso missionario. E il suo primo discorso missionario punta su alcuni aspetti principali. Prima di tutto torna il tema dello sguardo. Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il rischio di chi assiste, del popolo di Israele che assiste, è di fissare lo sguardo nella direzione sbagliata, proprio come lo storpio che stava alla soglia del Tempio. Lo storpio guardava Pietro e Giovanni, li guardava più che nel volto, li guardava nelle tasche, li guardava nelle mani, per vedere se dalle mani cadeva qualche moneta. E invece no, Pietro lo invita a dirottare lo sguardo direttamente sul volto, perché è da lì che viene l'appello di Cristo, dallo sguardo. Ugualmente il popolo fissa Pietro e Giovanni, e Pietro e Giovanni invece orientano lo sguardo verso un'altra direzione, verso la direzione di Dio. E la sottolineatura che viene rivolta al popolo di Israele qual è? È quella: voi credete nel Dio dei padri, il Dio di Isacco, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri padri. Ecco, questa menzione Dio la sottolinea, Gesù l'aveva ripresa quando in una delle dispute con i Sadducei aveva sottolineato che il Padre suo non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. E la vitalità di Dio si manifesta non solo abitando la storia passata, ma abitando la storia presente. E quello che era il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, diventa ora, sulle labbra di Pietro e di Giovanni, il Dio del servo Gesù. Quel servo che è stato ingiustamente messo a morte, quando invece l'autorità romana aveva deciso di liberarlo, e che è stato scambiato con un assassino. Ecco, per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a questo uomo. Quindi viene posto ora come elemento vitale del cambiamento dell'uomo la fede, ciò che permette all'uomo di passare da una situazione di malattia ad una di vitalità, da una situazione di soglia ad una di ingresso nel Tempio, da una situazione di staticità, di immobilismo, al salto, al camminare, al saltare, al lodare Dio. Tutto questo è possibile grazie alla fede. Sembra quasi qua sentire anticipata una delle pagine più belle della lettera agli Ebrei, no? Il capitolo 11, che è l'inno alla fede esemplare dei padri. Leggo solo alcuni passaggi di questo capitolo 11 della lettera agli Ebrei, dove l'autore scrive: per fede Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino, e in base ad essa fu dichiarato giusto. Per fede Enoch fu portato in vita, in modo da non vedere la morte. E poi continua: per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo primogenito. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche in vista dei beni futuri. Per fede Giacobbe morente benedisse Giuseppe. E così la storia della salvezza continua, uno dopo l'altro, e ognuno, grazie alla fede, riesce a fare un passaggio superiore. Ora, per fede, quest'uomo aderisce al Cristo e avviene il passaggio decisivo. Da quei 40 anni di quest'uomo, il passaggio decisivo è l'ingresso nella sua terra promessa, e la sua terra promessa è la terra che è Cristo stesso, luogo del, diremmo noi, no, del riposo di quest'uomo. Verrà proprio utilizzato anche questa immagine della terra e del riposo all'interno dell'epistolario paolino, dove e anche nella stessa lettera agli Ebrei, dove Cristo viene identificato come il punto di ristoro di un lungo cammino di ricerca dell'uomo. Solo in Cristo l'uomo ritrova riposo. Facciamo ancora un breve stacco musicale prima di approfondire la seconda parte di questo discorso e vedere come dall'annuncio del Dio dei padri, che non è più solo il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma diventa il Dio di Gesù Cristo e che in Cristo manifesta la sua vitalità, come poi il racconto continua, suscitando l'adesione degli ascoltatori. Un breve stacco musicale. Quindi nella prima parte del discorso Pietro e Giovanni sottolineano che il Dio di Gesù Cristo è lo stesso Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, lo stesso Dio dei padri. Nella seconda parte del discorso si rivolge agli stessi interlocutori cercando di coinvolgerli nella stessa fede che ha caratterizzato lo storpio. Ascoltiamo i versetti da 17 a 26. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Messia doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati, e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Messia, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: «Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà, e avverrà chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo». E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: «Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra». Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Allora, notate, siamo nella seconda parte del discorso. Nella seconda parte del discorso Pietro, con grande tatto ma anche con grande abilità, identifica gli ascoltatori con lo storpio. In che modo identifica gli ascoltatori con lo storpio? Prima di tutto facendo capire agli ascoltatori che in loro c'è ignoranza e una situazione di peccato. Dice loro: ora fratelli, tra l'altro passa dalla definizione di uomini di Israele a fratelli, c'è un coinvolgimento in loro, no? Io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, convertitevi dunque e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati. Detto in altre parole, voi avete una situazione di precarietà nella vostra vita che corrisponde a quella dello storpio. In fondo questo era anche il significato dei tre sacrifici che venivano compiuti quotidianamente al Tempio, perché il popolo di Israele compiva tre sacrifici al Tempio ogni giorno. Uno era legato all'espiazione del peccato, alla richiesta di perdono; uno era l'offerta della propria vita con un atto di ringraziamento; il terzo sacrificio era legato invece alla richiesta di benedizione, il famoso sacrificio dell'ora nona, che era legato alla richiesta di benedizione. Quindi, dopo aver individuato, aver detto al popolo che ascoltava: guardate, voi siete come quello storpio che è sulla soglia del Tempio, Pietro e Giovanni evocano una promessa. Questa profezia era molto cara agli ascoltatori, agli ascoltatori del primo secolo, perché tutti attendevano l'arrivo del Messia, e tra le attese del Messia c'era non solo l'attesa del nuovo Davide che avrebbe ricostituito le 12 tribù di Israele, ma anche il nuovo Mosè. E la profezia che Mosè aveva dato è proprio quella che viene evocata da Pietro quando dice: il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me, voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. Quando Mosè fece questa promessa? La fece, capitolo 18 del libro del Deuteronomio, proprio alle soglie della terra promessa, dopo i 40 anni di cammino nel deserto. Quindi vedete che c'è tutta un'assonanza, L'uomo malato ha 40 anni, viene guarito nel nome di Gesù, entra nel Tempio in grado di comunicare in modo vivo con il Signore, tanto vero che loda e canta a Dio. Ugualmente il popolo che ha assistito a questo miracolo viene chiamato a far propria la profezia di Mosè e riconoscere che in Gesù questa profezia si compie. È terminata il lungo cammino dei 40 anni, è giunto il momento di entrare nella terra promessa, di entrare nella vera relazione con Dio. Ma c'è ancora di più, perché il discorso di Pietro termina dicendo: voi siete figli dei profeti a cui era stata annunciata la benedizione, Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalla sua iniquità. Non dimentichiamo, siamo all'ora nona, alle 3 del pomeriggio, quando il popolo invocava su di sé la benedizione. La benedizione non viene più dal sacrificio, non viene più dal sacerdote, la benedizione viene da Cristo che è vivo e opera in Pietro e Giovanni. Ecco, dietro questo racconto c'è veramente un momento di svolta all'interno della comunità cristiana. La comunità cristiana comincia ad annunciare e il popolo di Israele è invitato a, come dire, aprire gli occhi sulla propria situazione di vita. E sarà proprio in questo contesto che entrano subito in scena, lo commenteremo la volta prossima, sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio, i sadducei, irritati per quello che Pietro e Giovanni stavano dicendo. È chiaro, il discorso di Pietro e Giovanni stava rivoluzionando tutto il sistema su cui si reggeva il Tempio e stava relativizzando il Tempio, mettendo al centro la figura di Gesù. Quindi vedremo la volta prossima come la reazione violenta da parte delle autorità del Tempio mostri ancora di più il valore di questo primo discorso di Pietro e Giovanni, che insieme tengono sotto l'immagine dello storpio. Cosa possiamo attingere per noi, per il nostro cammino personale? Vedete, ciascuno di noi nel proprio cammino di fede rischia ogni tanto di essere come questo storpio. Noi spesso viviamo il cammino di fede come lo storpio che sta sulla soglia del Tempio. Siamo sempre sulla soglia. Viviamo la nostra fede come una sorta di elemosina quotidiana, dove la nostra fede consiste nel vivere alcune pratiche di pietà, nell'andare a messa, nel dire il rosario, viviamo tutto questo non come rapporto con Dio, non come il rapporto dei figli con il Padre, ma come un momento in cui noi chiediamo. Andiamo perché dobbiamo chiedere qualcosa, dobbiamo chiedere una grazia, dobbiamo chiedere forza, dobbiamo chiedere questo e quest'altro. Ecco, la pagina di Atti 3 ci invita ad andare molto più in profondità. In Cristo questo stare sulla soglia è superato, in Cristo vive, scorre dentro di noi la vita del risorto, e la vita del risorto ci pone in un altro atteggiamento, che è l'atteggiamento di chi entra in un rapporto vivo, personale con il Padre e soprattutto entra in un rapporto caratterizzato dalla lode e dall'annuncio gioioso del Vangelo. Quando Pietro compie la guarigione nel nome di Gesù, cosa vuol dire quel nel nome di Gesù? Vuol dire che lo storpio è immerso nel mistero pasquale di Cristo, nella sua passione, morte e risurrezione. Ecco, tutti noi siamo stati battezzati nel nome della Trinità, nel nome di Cristo, siamo immersi nella vita di Cristo. La vita di Cristo parla, deve parlare attraverso i nostri gesti, le nostre parole, il nostro modo di fare, perché siamo pieni di questa vitalità divina. Non siamo degli storpi che sono lì a metà tra dentro e fuori, siamo concittadini dei santi, familiari di Dio, seduti accanto agli apostoli e ai profeti. Quindi questo ci dice che abbiamo anche un ruolo di grande responsabilità nella storia della salvezza, lo stesso ruolo che hanno avuto gli apostoli e i profeti. Lasciamo quindi che anche questa pagina degli Atti degli Apostoli scaldi la nostra fede, rassicuri il nostro passo nel cammino cristiano e ci aiuti a vivere sempre più in sintonia con la comunità cristiana di cui facciamo parte. Ecco, cari ascoltatori, è terminata la prima parte della nostra riflessione, ora è il vostro momento. Voi sapete che questi nostri momenti di condivisione sono sempre divisi in due parti. C'è la parte dove io condivido con voi e la seconda parte dove siete voi i protagonisti con le vostre riflessioni, con le vostre domande, con i vostri interrogativi, che spesso ci aiutano proprio a individuare alcuni aspetti che per negligenza posso aver tralasciato nella meditazione di questi versetti così ricchi e così densi. Quindi mi metto ora in ascolto vostro e in attesa delle vostre domande. Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono Stefano, la chiamo da Trento. Bene Stefano, dimmi pure. Ma io vorrei cercare di esprimere molto semplicemente il mio pensiero. La chiave di lettura, la chiave esegetica che ha detto dell'azione straordinaria di questi due uomini meravigliosi, questi due arabi, ebrei, che vivevano in una zona sperduta, desertica, una zona dove la vita era difficilissima, dove vivevano di pesca, e quel prodigio che riescono a compiere, ricco di mistero, così davanti a questo tempio così imponente, un tempio lungo 350 metri, dove si potevano contare i cortili, ognuno con la propria dedicazione, ed è straordinario come nella loro semplicità di uomini duri, abituati alla fatica, al sudore, al deserto, riescano ad avere un gesto d'amore così grande, tanto da non essere nemmeno compreso da questi sefarditi che hanno mistificato la verità per 2000 anni e ancora oggi la mistificano. Ed è vero, è un evento straordinario, in nome di Gesù, poter compiere un miracolo. Io credo che, ragionando e riportando ad oggigiorno questa tematica, non vale tanto la pena soffermarsi sul dettaglio della ridondanza o di tutte le cose che lei ha posto nella verbalizzazione, ma di cogliere il mistero profondo dell'amore, il mistero profondo di quello che è il credere in un Dio che si è fatto uomo e che ogni giorno compie miracoli. Grazie Stefano per il tuo intervento, effettivamente tu metti molto in evidenza un aspetto che ritroveremo negli Atti degli Apostoli al capitolo 4, no? Su cui poi sosterremo la volta prossima. Se il discorso che Pietro e Giovanni fanno a coloro che assistono a questo miracolo, noteremo che suscita subito la reazione delle autorità del Tempio, e le autorità del Tempio a un certo punto si trovano ridotte proprio a mal partito per quel motivo che tu hai evidenziato nel tuo intervento, quando hai detto sono persone semplici che riescono a fare cose grandi perché avvolte nel mistero di Cristo. Capitolo 4, versetto 13, Luca scrive, no, che vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano cosa replicare. Effettivamente poi tutto il discorso verrà portato su questo grande mistero che tu, Stefano, hai ben evidenziato e messo in evidenza. Però c'è come una gradualità. A questo si arriva ad agio, cioè non è che il mistero irrompe e acceca, c'è una sorta di pedagogia, e questa pedagogia prima passa attraverso l'attenzione di Pietro e Giovanni al singolo. Anche questo è un aspetto che giustamente merita di essere sottolineato e che io ho trascurato, cioè Pietro e Giovanni entrano nel Tempio, ma non vi entrano come le altre volte. Le altre volte entravano e andavano, come dire, al luogo in cui avveniva il sacrificio del Tamidi, il sacrificio dell'ora nona. Ora invece il Cristo vivo dentro di loro, attraverso l'azione dello Spirito, li porta a essere attenti a coloro che stanno sulla soglia. E quell'uomo che è sulla soglia e che tende le mani per ricevere una moneta d'oro o una moneta d'argento, diventa il primo testimone di quella risurrezione che abita già il cuore di Pietro e Giovanni. Poi è vero, forse non è il caso di dare tanta enfasi ad alcuni dettagli nel testo, ma a me piace sempre come dire, far notare come gli evangelisti, i narratori, cercano di comunicare la forza della risurrezione non solo attraverso un semplice racconto. Il loro non è un semplice narrare, ma hanno delle qualità anche letterarie e narrative, e cercano di comunicare lo stesso mistero in diversi modi, raccontando l'episodio, arricchendo questo episodio di tanti piccoli dettagli e cercando di aiutare il lettore attraverso questi piccoli dettagli a comprendere il valore di questo episodio. Vedi, il fatto che quest'uomo abbia 40 anni non è trascurabile. Il fatto che ci sia la ridondanza sul tema del guardare o del vedere non è secondario, perché a volte noi sbagliamo proprio in quel punto lì a vivere il nostro atteggiamento di fede. A volte noi viviamo la nostra fede con lo sguardo puntato nella direzione sbagliata. Quante persone vivono la loro fede con lo sguardo puntato nella direzione sbagliata? Al posto di puntare sulla misericordia di Dio, continuano a puntare sul tema del semplice peccato, cadendo poi nella depressione. Oppure, al posto di puntare solo su Dio, puntano continuamente sul loro sforzo, dimenticando che l'esperienza di fede è un'esperienza di grazia, è un'esperienza di misericordia, e questa esperienza di misericordia non te la puoi dare da solo. Cioè, a volte è una questione di prospettiva sbagliata, e Luca lo dice attraverso questi dettagli letterari. Quindi è vero, il nucleo del discorso lentamente si sposterà su questo grande miracolo che il Signore ha fatto non solo in chi ascolta, ma anche in Pietro e Giovanni, trasformandoli da poveri strumenti in veicoli preziosi dell'annuncio di Dio. Però è giusto anche evidenziare tutti questi altri aspetti che fanno parte, che richiedono magari uno scavo più austero, ma che è sempre prezioso per capire il messaggio di queste pagine. Grazie Stefano per il tuo intervento. Pronto? Pronto? Sì, con chi Pronto, parlo? Buonasera. Buonasera. Buonasera. Sono un diacono permanente della diocesi di Reggio Calabria, mi chiamo Rocco. Senta padre, un tale mi faceva questa osservazione, questa domanda, magari sarà fuori tema, non lo so. Dice, già il filosofo greco Epicuro del terzo secolo avanti Cristo dichiarava: se Dio vuole togliere il male non può, è debole; se può e non vuole, è ostile nei nostri confronti; se non vuole e non può, è ostile e debole; se vuole e può, perché permette il male e non lo elimina? Io gli ho risposto che dipende tutto da se siamo liberi. Ho risposto bene? Allora, sì, dovrei avere il testo che lei ha letto sotto mano, però ecco, faccio una riflessione a partire un po' dal rapporto con la filosofia, no? Lei ha citato delle massime, possiamo dire così, che vengono dal mondo della filosofia, e poi ha toccato il nucleo vitale, il nucleo del male. Come mai c'è il male? Come mai Dio permette il male? E ha risposto, lei ha già dato una risposta, perché ha detto il male dipende dalla libertà dell'uomo. Noi siamo liberi, Dio ci vuole liberi, quindi c'è la possibilità di scegliere il bene o scegliere il male. Ecco, ovviamente dietro questo tema c'è una marea di questioni che si aprono davanti a noi. Mi piace però associare il concetto del male al tema dello storpio, a quello su cui noi ci siamo soffermati questa sera. Perché Luca utilizza questa immagine, questa persona come anche un po' persona esemplare di un popolo che in qualche modo resta prigioniero di una concezione, come dire, di precarietà, di fragilità, di male anche nel rapporto con Dio. Perché? Perché è vero che noi siamo liberi, però c'è una sorta di pedagogia che il Signore non si stanca di utilizzare con ciascuno di noi. Il Signore può sempre vincere il male, può sempre vincere le situazioni di ombra in cui noi siamo e ci prende lì dove noi siamo. Il Signore è colui che ci incontra nel momento in cui noi siamo seduti sulla soglia a tendere le mani per ricevere una moneta. Il Signore ci dice: no, fissa lo sguardo su di me, io ti posso dare qualcosa in più. Vedete, ieri nella liturgia ambrosiana, come lettura festiva, c'era il brano della Samaritana, lo stesso brano che nella liturgia romana sarà proclamato domenica prossima. E a me di questo brano di Giovanni 4 mi colpisce, mi sono proprio soffermato ieri su questo aspetto, questo Gesù che sa sedersi e fermarsi sui pozzi che nascondono le nostre ambiguità. Questo Gesù ha accolto la Samaritana con le sue ambiguità, con quei cinque mariti più uno, quei cinque mariti che per alcuni studiosi rappresentano i cinque popoli con cui Israele ha sempre cercato le alleanze per essere forte, no? E il Signore lo aspetta lì, affronta questo episodio dicendo: ma vicendevolmente, entrando in relazione, ci possiamo dare di più. Ma al pozzo Gesù non aspetta solo la Samaritana. Al pozzo Gesù aspetta anche i suoi discepoli, che tornano scandalizzati perché lui parla con una donna, che sono preoccupati perché temono che abbia ricevuto qualcosa da mangiare dai samaritani, il che lo renderebbe impuro, lo legherebbe a quel popolo. Gesù li aspetta lì, seduti al pozzo, li aspetta con le loro chiusure, per aiutarli ad affrontare le loro chiusure. E per aiutarli a restare in quel villaggio di Samaria 2 giorni, altro che aver paura di mangiare qualcosa, hanno dovuto mangiare e bere con i samaritani, quei 12. E poi sempre al pozzo chi aspetta? Aspetta gli abitanti di Sicar, che hanno bisogno di fare un passaggio nella fede. E il passaggio nella fede che gli abitanti di Sicar hanno bisogno di fare è quello di passare dal sentito dire all'esperienza personale. Quindi Gesù si siede nei pozzi delle nostre ambiguità, e le ambiguità non hanno un credo, non sono le ambiguità degli ebrei o dei cristiani o delle diverse, ognuno di noi ha le sue ambiguità, e il Signore si siede sul pozzo di ciascuno, ognuno di noi ha il suo passo da fare, ha il suo passo da fare per, come dire, alzarsi dalla soglia ed entrare in diretto contatto con Dio. Ma la cosa bella è questa, che anche colui che è seduto nel male, in quel mistero del male che il nostro diacono da Reggio Calabria ci evidenziava, anche colui che è seduto nel mistero del male, il Signore lo raggiunge per, come dire, fargli fare il salto di qualità, proprio come lo storpio che dalla soglia entra nel Tempio. Grazie quindi anche a lei che ha telefonato da Reggio Calabria. Pronto? Pronto, mi chiamo Rosanna, parlo da Milano, provincia. Vorrei sapere questo. Allora, per entrare nel Tempio è necessario il battesimo, no? Ecco, io ho due nipotine che, poverette, sono lì sulla porta e aspettano. E appunto volevo sapere quanto tempo è necessario di catecumenato, perché una ha 7 anni e l'altra 9, hanno seguito per tutto l'inverno il catechismo, ma il battesimo lo faranno fra 2 anni, un anno, due. A me sembra che ricevere la grazia, no? Ricevere Cristo, diventare cristiani, sia una cosa importante. Non so cosa mi dice. Grazie Rosanna per la tua domanda. È molto molto bello vedere come le onde di Radio Maria creano proprio un'unica comunità dalle diverse parti dell'Italia, no? E anche del mondo. Da Trento siamo scesi a Reggio Calabria, da Reggio Calabria siamo saliti a Milano con Rosanna, che tocca un argomento che ha più a che fare con la liturgia. C'è un po' un salto interpretativo che vede nel miracolo su cui ci siamo soffermati questa sera, la scena del battesimo. Allora, bisogna dire, cara Rosanna, che un conto è il battesimo dei bambini molto piccoli, appena nati, in genere quello viene fatto quando i genitori lo chiedono. E perché viene fatto subito quando i genitori lo chiedono? Perché i genitori, si presuppone, abbiano già un percorso di fede, o comunque se non loro c'è il padrino e la madrina, e poi il bambino viene accompagnato lentamente nel suo cammino di crescita grazie al padrino, alla madrina, ai genitori e alla comunità cristiana. E lì quindi c'è poi la riscoperta di tutto quello che è stato il passo che altri hanno fatto per lui quando era molto piccolo. Diverso è il percorso che deve fare una persona, un bambino più grande. Per il bambino più grande l'iniziazione cristiana prevede, come dire, tutta una tappa di formazione che ha lui per soggetto, al centro c'è lui, e quindi bisogna pian piano introdurlo nel mistero di quello che vivrà attraverso un itinerario, come dire, comunitario con altri bambini, che però richiede delle tappe, proprio perché è un momento importante, non è che lo si può dare da un giorno all'altro, richiede una formazione, richiede un'attesa, richiede la presa di coscienza di tanti piccoli elementi, e tutto questo aiuterà il bambino, il ragazzo in questo caso, ad entrare ancora di più nel mistero di ciò che ha celebrato. Ora, ogni diocesi ha, per il momento, ogni diocesi ha un pochino un suo percorso per l'iniziazione cristiana. La diocesi di Brescia, ad esempio, ha un percorso di iniziazione cristiana che è diverso da quello dell'arcidiocesi di Milano o semplicemente da quello di Bergamo o di Venezia. E negli ultimi anni ci sono stati anche un pochino diversi percorsi sperimentali che la comunità cristiana ha cercato di vivere a livello di iniziazione cristiana. Dopo alcuni anni di sperimentazioni, i Vescovi d'Italia si sono un pochino, hanno raccolto i frutti di tutte queste sperimentazioni e stanno per rendere pubblico un documento che mette un pochino, tira le fila dell'esperienza fatta e darà alcune indicazioni alle diverse diocesi, ma ancora una volta vedremo che in queste indicazioni si tiene distinto il cammino che fanno i genitori con i bambini nati da poco, il cammino che fanno i ragazzi per i quali magari è necessario proprio quel percorso che agli adulti sembra un po' lungo, e il cammino che fanno i catecumeni adulti, che è ancora diverso. Perché? Perché il Signore ci prende per mano rispettando le nostre tappe di vita. In ogni caso, cara Rosanna, le invito proprio, non è il caso di avere fretta. Quello che è importante è che questo cammino sia un cammino anche gioioso da parte dei ragazzi e dei e delle famiglie che sono dietro i ragazzi. Del resto, se noi guardiamo il percorso che i 12 hanno dovuto fare, capiamo molto bene che il battesimo, tra virgolette, i 12 l'hanno ricevuto dopo 3 anni di percorso con Gesù, nel mistero pasquale di passione, morte e risurrezione. E anche dopo quello hanno avuto bisogno di un periodo di mistagogia abbastanza lungo per capire quello che era successo e per diventare annunciatori, come lo sono stati Pietro e Giovanni, che grazie al loro annuncio rendevano Cristo vivo in mezzo a loro. Quindi questo spiega a volte il perché ci sono magari delle tappe che noi vorremmo bruciare in fretta, ma che è bene che abbiano una certa gradualità. Grazie Rosanna per la sua domanda. Pronto? Pronto? Sì. Sì. Buonasera Don Giacomo, sono Agnese da Palermo. Bene, volevo chiederle una cosa, un pensiero, è sui santi. Cioè prima nella Bibbia si parla, prima di Gesù, si parla dei profeti, però non si parla di miracoli. E lo Spirito Santo mi aiuti a spiegargli quello che ho in testa io. Allora, con la venuta di Gesù, è chiaro che Gesù fa i miracoli, con la resurrezione c'è stata la fioritura dei santi, fino ad oggi noi abbiamo i santi. Come mai questi non c'erano prima di Gesù i santi? Cioè, perdoni la mia ignoranza, cioè è la fioritura del Vangelo in pratica, credo. Me lo spiega quello, non so se ho reso l'idea. L'ascolto per radio. Grazie. Cara Agnese da Palermo, allora la invito a guardare con attenzione il calendario, perché se lei guarda un calendario, anche un semplice calendario liturgico, si accorgerà che nell'elenco dei santi non ci sono solo le persone che sono venute dopo Gesù, ma ci sono anche dei santi che sono venuti prima di Gesù. C'è San Mosè, c'è Sant'Elia, c'è Sant'Eliseo, ci sono lo stesso Davide, cioè ci sono figure che nell'Antico Testamento hanno vissuto con intensità la vocazione che Dio ha loro dato e che sono venerati come santi dalla Chiesa. Gli stessi miracoli non caratterizzano solo il momento del ministero pubblico di Gesù. Se lei va a leggere con attenzione alcuni capitoli del Libro dei Re, il capitolo ad esempio dal 17 in poi, dove viene narrato il ciclo del profeta Elia, il ciclo del profeta Eliseo, il ciclo narrativo di questi due profeti, vedrà che sono pieni di miracoli, come del resto quelle che noi consideriamo 10 piaghe, le 10 piaghe di Egitto, prima di essere delle piaghe sono dei grossi segni, dei grossi miracoli che servono per convincere e sciogliere questo cuore indurito del faraone. Quindi sia i miracoli sia il cammino di santità fa parte di tutta l'esperienza cristiana, di tutta l'esperienza biblica, scusi. Tutto questo trova una particolare pregnanza dopo l'avvento di Cristo. In che senso trova una particolare pregnanza? Se prima si guardava al passato, a queste grandi figure, Elia, Abramo, Mosè, Giacobbe, i profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, tutte queste grandi figure, come delle figure straordinarie, dopo Gesù la santità non è più un fatto straordinario riservato a poche persone scelte da Dio per una missione particolare. Dopo Gesù la santità è la via a cui è chiamato ogni credente. Nel momento in cui noi siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, le 3 divine persone vivono dentro di noi e operano attraverso di noi e ci invitano a portare a compimento quella vocazione che ciascuno di noi riceve nel momento del battesimo, che è la vocazione primaria alla santità. Pensate che anche noi religiosi, Ecco, io sono, faccio parte di una congregazione religiosa, sono un paolino, una congregazione religiosa fondata dal beato Giacomo Alberione, no? Noi come religiosi, come del resto tutti gli altri ordini monastici, nelle nostre costituzioni, nelle regole degli ordini monastici, ognuno negli statuti che guidano, il primo articolo è sempre legato alla manifestazione della santità ricevuta nel battesimo. È qui che sta, se vuole, la svolta che lei voleva mettere in evidenza. In Cristo tutti possono vivere la via della santità. Perché? Perché la via della santità è lasciar vivere il Cristo in noi. E se il Cristo vive in noi, beh, la nostra vita non può che essere santa. Il problema è che questo lasciar vivere Cristo in noi richiede, come dire, un esercizio continuo, un'umiltà continua di chiedere il dono della grazia e mettere nelle mani del Signore le nostre fragilità, i nostri peccati, le nostre durezze, perché Lui, come dire, le macini, come il grano per farlo diventare farina. Quindi vede, cara Agnese, che la risposta che le do è una risposta di grande responsabilità, perché ciò che era straordinario, magari nelle pagine antico-testamentarie, diventa invece ordinario per i cristiani, che sono chiamati a una straordinarietà di vita, una vita luminosamente santa. Grazie Agnese per il suo interrogativo. Pronto? Buonasera, sono Luisa di Trento. Bene, so Luisa, torniamo a Trento con lei, bene. Non so se la mia domanda fa parte proprio della trasmissione, però non l'ho sentita tutta, non ho avuto l'opportunità. Mi preme chiederle una cosa. Io dopo la celebrazione della messa mi fermo un attimo in ringraziamento e a pregare anche qualche volta, e poi prima di uscire con l'acqua santa benedico le anime del purgatorio. Poi però, siccome ho una carissima persona che ha perso un bambino, era in 4 mesi mi pare, e è angosciata sta povera figliola perché non è stato battezzato questo bambino che ha perso, io battezzo i bambini non battezzati, posso farlo o no? Ma li battezzo in che senso? Nel senso che con l'acqua santa dico battezzo i bambini non battezzati di sempre, di ieri, oggi e domani. E poi dico alla Madonna metti tu i nomi. Ah, va bene. Posso farlo? Allora, noi possiamo di per sé nella nostra fantasia e creatività possiamo, come dire, fare tante cose, però ogni tanto è bene che ci fermiamo e ragioniamo un attimino su alcuni gesti, no? Più che altro per dare a questi gesti la giusta validità, la giusta sostanza. Prima di tutto, Luisa, lei fa molto bene a fermarsi un attimino dopo la celebrazione. Questo sarebbe un atteggiamento, come dire, che tutti dovremmo vivere e imparare, perché altrimenti noi passiamo da una cosa all'altra senza, come dire, interiorizzare quello che abbiamo vissuto. Nella messa il Signore ci rende partecipi del grande dono della sua vita, no? E a volte ne siamo totalmente incoscienti. Andiamo a messa, a volte entriamo e usciamo come si va a prendere un caffè. Sembrerà forte questa espressione, ma guardate che a volte si ha l'impressione che sia così, che non ci si renda conto, diventa un piccolo rito quotidiano o festivo. Deve essere qualcosa di più, deve introdurci nel mistero di vita di Gesù, altrimenti c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Per quanto riguarda il ricordo delle anime che sono in purgatorio, anche questa è una cosa santa, una cosa molto buona. Le anime del purgatorio io le immagino sempre come persone, tutti coloro che muoiono non è che possono subito accostare la luce, quando io passo dal buio alla luce I miei occhi non è che possono subito vedere la luce, si devono abituare lentamente alla luce. Quindi lo stesso vale per noi quando moriamo, abbiamo bisogno di un cammino di purificazione. Però il cammino ha anche le sue stanchezze, il cammino ha anche i suoi momenti di cedimento. Ecco, pregare per le anime purganti, immergere le anime purganti nel sacrificio di Cristo sulla croce attraverso l'Eucarestia è il nostro modo di sostenerle. E quindi c'è, come dire, questo profondo legame tra la Chiesa che è qui in terra, la Chiesa che si incammina verso il Paradiso e la Chiesa gloriosa, che è fatta di questa carità, la carità della preghiera, del sostegno. Ecco allora questo accompagnamento che noi facciamo attraverso la preghiera, che lei esprime in un modo che sia un pochino costruito lei, ma che ha ragione di essere. Ecco, più delicato invece è il discorso sui bambini. Quando i bambini muoiono pochi giorni dopo la nascita o in uno stato in cui non hanno ancora ricevuto il battesimo, un tempo c'era l'angoscia che questi bambini non accedessero alla salvezza, che finissero in un luogo non ben definito, si parlava del famoso limbo nel passato. Poi, grazie a Dio, ecco, anche la visione della Chiesa matura e va oltre alcune immagini, il concetto di limbo è stato totalmente messo da parte e questi bambini allora dove vanno? Ma questi bambini, la vita, il dono della vita è il dono di Dio. Questi bambini non hanno nessuna colpa, questi bambini sono subito nel seno del Padre, nel seno del Padre. Sono angeli che ci accompagnano nella vita che incontreremo quando andremo presso il mistero di Dio. Non hanno bisogno di nessuno una volta che sono morti, passati dall'aldilà, di qualcuno che faccia dei riti battesimali sui generis. E ognuno di loro ha un nome, non c'è bisogno che gli dia lei i nomi, perché i genitori che perdono dei bambini soffrono quando perdono quei bambini, e quei bambini hanno un nome prima ancora che nascano, perché i genitori ci hanno già pensato a quello, e se sono per diverse ragioni rimasti senza nomi, hanno un nome scritto nei cieli che conosceremo quando saremo di là. Ovviamente questo nulla toglie al gesto di attenzione verso queste creature o verso i loro genitori, per cui un gesto che esprima anche l'attenzione verso di loro è doveroso, però ecco, bisogna calibrarlo nel modo giusto. Comunque grazie Luisa, perché con tanta semplicità e trasparenza hai posto il tuo interrogativo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Sono Michele da Caserta. Volevo sapere, padre, se io non manifesto Gesù, perché io ho fatto un sogno, ho avuto 5 crocifissi in breve nel volto, cioè faccio per caso che non manifesto Gesù? Non ho capito. Allora, volevo sapere, se io non manifesto Gesù, è un peccato oppure no? Cioè, allora, io ho fatto... ogni volta che noi... Che cos'è il peccato? Il peccato è proprio non vivere, cioè rifiutare il dono che il Signore ci dà. Se il Signore vive dentro di noi con il dono del battesimo, nel momento in cui io ostacolo, come dire, il suo crescere dentro di me, ecco, questo è peccato. Il non manifestare Gesù significa, se io non manifesto Gesù, vuol dire che non manifesto quello che Gesù è. E quindi non manifestando lui manifesterò qualcosa d'altro, però se questo qualcosa d'altro non è in sintonia con il Cristo, è chiaro che tutto quello che non è in sintonia con Cristo genera il male. E qua, ecco, per rispondere alla sua domanda, attingo da un passaggio della lettera di Paolo ai Galati. La lettera di Paolo ai Galati a un certo punto dice con chiarezza su quali binari può camminare una vita, E Paolo dice, o noi camminiamo secondo la logica dello Spirito, quindi manifestando il Signore, o noi camminiamo secondo un'altra logica, che è quella della carne, che ha però le sue opere. E Paolo dice così, la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Notate, Paolo fa capire che dentro l'uomo c'è una lotta e questa lotta sta proprio nel seguire una via o l'altra. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito non siete più sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne e le elenca, dice fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizia, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. 14, l'elenco è fatto di 14 elementi negativi, più eccetera, e cose del genere. Quindi capite molto bene in quanti modi è frantumata la nostra vita quando non lascia emergere il Signore. E poi dice, il frutto dello Spirito invece è, prima di tutto lo Spirito non è disperso in mille cose, il frutto dello Spirito è uno, è amore. E poi dovremmo mettere i due punti nel testo, non la virgola, cioè gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quelli che sono di Cristo Gesù vivono in questo modo. Ecco, per cui la risposta, no, che sento di dare è questa. Se uno non lascia trasparire il Cristo, come fa a lasciar trasparire gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé? Non può, non riesce, noi non riusciamo da soli. Però se non viviamo queste cose cadiamo sull'altro lato della bilancia. Ora io penso che il nostro ascoltatore di Piacenza, se ha fatto questa domanda, vuol dire che cerca di lasciar trasparire il Signore dentro di sé. E quando uno ha la ricerca è già sulla strada giusta. Poi magari sulla strada giusta uno non ce la fa da solo, allora se non ce la fa da solo chiede aiuto, si fa dare la mano da qualcuno. Se vede che anche questo non basta, chiede qualche vitamina in più e noi abbiamo la forza che viene dai sacramenti, che è molto più di una vitamina. Se non basta ancora questo, starà un pochino più in ginocchio a invocare luce, pietà, grazia attraverso il dono della preghiera. Se non basta ancora questo, cercherà altre vie, anche di carattere, come dire, di scavo umano nella sua esperienza di vita. L'importante è non mollare. Nel cammino della fede non è grave cadere, è grave restare a terra. È grave quando non ci alziamo in più, non ci alziamo più. È grave quando ci accontentiamo di essere degli storpi che ogni giorno vengono messi sulla soglia del tempio e si accontentano di due monetine. Questo non è cammino di fede autentico. Cammino di fede autentico è di voler, come dire, rimetterci in piedi per camminare, saltare e lodare Dio, come ci diceva il brano su cui abbiamo sostato questa sera. Quindi grazie anche a lei per la sua domanda. Cari ascoltatori, dalla regia mi dicono che il tempo a nostra disposizione è terminato. Ecco, so che il brano che abbiamo condiviso stasera magari era un pochino più complicato rispetto ad altri, perché alternava il racconto al discorso di Pietro, però avete visto anche quanti spunti possono nascere da un testo come questo. Ecco, l'augurio che faccio a me, che faccio a ciascuno di voi, è che questo cammino quaresimale che ci porta verso la Pasqua sia anche per noi un cammino come quello fatto dallo storpio. Possiamo incontrare il Signore che mette dentro di noi quella forza che ci non solo rimette in piedi, ma ci fa entrare nel cuore dell'esperienza di Dio con la gioia e lo slancio per vivere e annunciare il Cristo risorto. Un caro augurio, un caro saluto a tutti voi e che la benedizione di Dio e di Maria sempre ci accompagnino. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.